È di qualche giorno fa la notizia che servirà il tampone anche per i vaccinati per accedere a cinema e teatri. Siamo qui per parlarne con Nicola Borghesi, attore, regista e direttore artistico per la compagnia Kepler 452. Ciao Nicola, bentornato ai microfoni di Radio Città Fugico. Buongiorno, ciao. Allora, Nicola, ancora una volta i lavoratori e le lavoratrici del settore spettacolo sono stati un po' messi in secondo piano. Beh, cioè, se non è che in primo piano ce l'avamo mai stati, esatto. Neanche prima della pandemia, a dire il vero. Cioè, diciamo che secondo me quello che sta succedendo in questo periodo, insomma, è specchio un po' della nostra più generale considerazione presso il mondo, in Italia, e anche, diciamo, del posto che noi stessi ci siamo ritagliati nel mondo. Quindi non è solo, secondo me, loro che ci considerano poco, ma anche noi che, diciamo, ci siamo disposti molto spesso in modo da non essere esattamente centrali all'interno della vita del paese. L'unica cosa che credo, spero, adesso non sono informato, però quella roba lì dei tamponi per andare a teatro era per il momento un'indiscrezione su una roba che dovrebbe succedere il 23, che però non era confermata. Io spero che non si confermi mai. Certo, sì, ancora diciamo è in fase di sviluppo, ecco. Ma se passasse questa cosa che i tamponi serviranno anche per i vaccinati per accedere a cinema e teatri, come pensi che inciderà questa scelta poi sui teatri e cinema, appunto? È un modo elegante per dire che li si vuol chiudere, ma non che li si vuol chiudere come li si chiude in un momento in cui tu hai deciso di applicare delle restrizioni temporanee, come l'anno scorso con le regioni a colori o l'anno prima nel lockdown. No, li vuoi chiudere nel senso per sempre. L'idea di tenere aperto un teatro con l'obbligo di tampone, come dire, è penso l'azione più scellerata che si possa pensare nei confronti del settore. È una totale follia. Nessuno che io conosca farebbe un tampone da 15 euro per andare a vedere uno spettacolo. O meglio, sì, qualcuno lo farebbe e gliene siamo grati ed è un grande. Però, come dire, in questo qua è un paese, l'Italia, in cui non si è mai diffusa la cultura del testing ed è un peccato. Cioè, non so come dire, se facessero una legge per cui si amplia notevolissimamente l'attività di testing, io sarei d'accordo, naturalmente su tutto, cioè diciamo a tappeto e gratuiti per tutti. In generale io trovo che il testing sia una delle parti più trascurate delle politiche sanitarie del nostro paese, quindi in generale io sarei d'accordo al fatto che si facessero più tamponi, ma metterli per andare a teatro chiedendo a qualcuno di pagare 15 euro, a parte che è una misura classista, perché stai chiedendo 15 euro ad alcuni, cioè che qualcuno se lo può permettere e qualcuno no, e in più diciamo applicarlo tra l'altro a teatro, che mi dispiace tornare nella solita guerra tra poveri, però teatro è un luogo dove stai con la mascherina sempre e si tiene effettivamente per lo più. Tra l'altro, così la butto lì, se qualcuno ascolta tra quelli che decidono questa cosa, che non credo sia così, però una misura molto molto più utile sarebbe per esempio l'introduzione dell'obbligo della mascherina FFP2 a teatro, che è una cosa a cui bisogna arrivare ben prima. Questa del tampone mi sembra, scusate, sono andato un po' lungo, ma ecco, l'obbligo di tampone per andare a teatro è una misura fatta, non so se coscientemente o no, se qualora fosse fatta, per ammazzare un settore. Cioè è proprio una cosa insensata. Io tra teatri aperti con l'obbligo di tampone e teatri chiusi con i ristori, che ci devono pagare, perché se ci chiudono ci pagano, io preferisco di gran lunga i teatri chiusi. Certo, poi in realtà proprio ora che insomma la capienza era diventata al 100%, si era anche riniziato, no, con tutta quanta la stagione teatrale, che sappiamo bene che non è solo un mese di programmazione, ma può arrivare fino anche a un anno, quindi insomma tanto lavoro certo. Dietro. Sì, sì. Ora, la situazione epidemica in generale mi sembra stia molto peggiorando, quindi il tema è che da quello che mi pare di capire, non intendo, però quel che leggo, ci troveremo davanti a una situazione difficile nei prossimi mesi e non possiamo, anche noi come categoria di artisti, stare lì a sperare che lo tsunami ci risparmi, perché non risparmia nessuno, men che meno noi. Credo che questa attitudine di sperare nel fatto che non succeda qualcosa sia un'attitudine che poi ci porta ad avere poca voce in capitolo. Cioè noi dobbiamo essere coscienti che se questa variante si diffonde, questa variante, come parrebbe, ha dei profili di immunoevasività rispetto ai vaccini che ci sono in essere, è chiaro che è un problema per tutti, mica solo per noi. il problema nostro, del comparto teatrale, è non stare qui a sperare che non succeda, ma mettersi avanti e immaginare come gestire quello che pare potrebbe succedere in maniera sensata, sia dal punto di vista di come vengono fatte queste chiusure, di come vengono distribuiti gli aiuti, di come si chiede alle istituzioni teatrali di collaborare con gli artisti, da una parte, e dall'altra anche di come noi stessi artisticamente vogliamo reagire a quello che sta succedendo. Ripeto, questa speranza che tutto vada bene, quando sono un po' di anni, che arriva sempre un momento, che noi diciamo speriamo che non ci tocchi, ma no, alla fine ci tocca, mi sembra che abbia un po' fatto il suo tempo. Certo. Quindi in questo momento dovremmo dire con forza che sono meglio le chiusure con i ristori che qualunque idea di chiusura nei fatti senza darti un euro, che sarebbe una cosa che da questo governo io mi aspetto assolutamente, perché questo è un governo che di ristori non ne ha dati mai, ha anche chiuso meno del precedente, però il precedente ti chiudeva ma ti dava i ristori. Questo qua, quando ha chiuso i ristori non li ha dati, o se li ha dati, li ha dati con straordinario ritardo, perché è un governo che, diciamo, non mi pare abbia molto a cuore le sorti dei lavoratori dello spettacolo. Certo, io Nicola ti ringrazio veramente per questo commento, ecco, riguardo un po' la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, e che dirti, spero che ci vedremo a teatro. Speriamo sì. Speriamo, ma prepariamoci razionalmente a qualunque soluzione, diciamo, nel tentativo di difendere questa già martoriata categoria.